La cultura occidentale è sempre stata caratterizzata da una struttura binaria che ruota intorno a coppie di categorie uomo, donna, naturale, artificiale, corpo-mente. Il dualismo non è simmetrico e si basa su logiche di dominio. Nel nostro girovagare nelle oscure galassie cibernetiche abbiamo incontrato i cyborg, non solo invenzioni fantascientifiche, ma metafora della condizione umana, dal momento che non sono né macchine né esseri umani, né uomini né donne, ci insegnano ad andare oltre i confini delle categorie concettuali tramite le quali ci avrebbero voluto insegnare ad interpretare il mondo. Thank you. by making it worse. My mask is my master, the trumpeter weeps, but his voice is so weak as he speaks from his sleep set. Siamo i custodi della percezione, guardiani degli angeli caduti in fiamme dal cielo, lupi siderali. Un gruppo di liberi sognatori indipendenti. Viviamo nel cyberspazio, siamo dappertutto. Non conosciamo frontiere, questo è il nostro manifesto. 1. Canteremo la resurrezione dell'anima consumata nella tecnologia, la notte, il sogno, la visione e la connessione e tutto ciò che sublima le nostre anime ad un ordine superiore di conoscenza. 2. Il deragliamento dei sensi, le corrispondenze analogiche e la rottura del controllo saranno gli strumenti fondamentali della nostra ricerca. 3. Noi vogliamo scavare a fondo nelle carni dell'universo, penetrare sotto l'epidermite del mondo e raggiungerne il midollo pulsante. La parola, l'immagine e l'equazione sono i virus che trasportano la nostra infezione. 4. Noi crediamo che il mistero dell'universo sia codificato in una chiave inafferrabile ed indistruttibile, l'ologramma, il principio olografico, il modello olonomico della mente e l'olomovimento. Dalla struttura della realtà ai nostri schemi di senso, la percezione conosce un solo paradigma che racchiude le istanze della relatività e dell'indeterminazione. 5. L'ordine esplicito dischiuso al senso è solo l'immagine proiettata di un ordine implicito irraggiungibile. Non basta disseccare il mondo per svelarne la verità che nasconde. Occorre risalire il fascio di luce fino alla pellicola per comprendere da dove proviene l'immagine che vediamo. Vogliamo rimontare il flusso fino a toccare la sorgente che inganna la percezione e staccare la luce. Solo così solleveremo il velo. 6. Ci abbandoniamo al riflusso, pronti a catturare l'onda irrequieta del tempo. Sulle spiagge del futuro ascoltiamo la voce dei morti e la musica che emerge da tutte le cose del mondo. Il nostro sogno è un rituale di negromanzia quantistica. 7. Noi siamo quelli che camminano da soli per strada, quelli sospesi tra l'illusione del mondo virtuale e l'inganno del mondo reale. Scorriamo i sentieri eterei della rete, navighiamo nell'oceano dell'informazione. Siamo impulsi di adrenalina nei cavi che cablano la realtà. Siamo lupi siderali alla deriva sulle correnti ioniche del vento solare, ombre che cantano alla notte per ascoltare l'eco delle voci risuonare in lontananza. Immersi nel flusso ininterrotto dell'informazione, ci lasciamo guidare da spettri e percorriamo le immense distese silenziose di periferie entropiche adagiate nel crepuscolo dei sensi. Siamo quelli che sostano all'ombra degli alberi in ascolto del loro respiro avvolgente e quando dormiamo esploriamo le terre del sogno. 8. Non abbiamo nomi. Il nostro vero nome è un sussurro nel buio, un rumore nascosto nella radiazione di fondo dell'universo, un segnale immerso nel rumore bianco della materia. Il nostro nome vaga libero nella notte. 9. Noi siamo rabdomanti cibernetici. Ricerchiamo le connessioni segrete che custodiscono il significato e lo spirito di tutte le cose. Siamo decifratori e vogliamo scardinare il flusso di tutte le cose, risolvere il tempo nella sovrapposizione concorrente degli eventi. 10. Noi vogliamo cantare le strade deserte della notte, i monumenti congelati nel silenzio, le luci al neon della metropolitana. Le periferie spettrali, i cimiteri di campagna, i reperti dell'archeologia post-industriale, le autostrade abbandonate, le città rase al suolo da bombardamenti, le strade dei briganti, la morbida geometria dei corpi, il silenzio attinico di stanze d'albergo abbandonate, la carica sensuale della promiscuità tecnologica, il caos, le stelle, i pianeti deserti, le sonde lanciate verso la notte, la musica radiante di quasar morte, la tenebra metafisica di un orizzonte degli eventi. La connessione neurale, il respiro della notte, il ruggito delle nove e i sospiri di stanze che deformano la nostra comprensione dei sogni. Siamo antenne puntate nel vuoto, variabili impazziti, violini male accordati, cronoscopi fuori fuoco. Inseguiamo la condivisione delle anime, dei luoghi e del tempo, usando antichi percorsi mistici. Viviamo nella connessione e siamo protesi verso il futuro, e per questo noi saremo tutto. Manifesto connettivista. Ma chi sono i connettivisti? Alfred Elton Van Vogt è il primo che parla di connettivismo, introduce una teoria secondo la quale tutte le discipline hanno raggiunto un elevatissimo grado di specializzazione a causa del quale non sono più in comunicazione tra loro ed occorre qualcosa che le porti a dialogare nuovamente. Questo qualcosa è il connettivismo e chi lo fa è un connettivista. In Italia è un movimento letterario che, sulla scia del cyberpunk, cerca di coniugare tematiche fantascientifiche a tematiche sociali. I contributi dei suoi autori sono pubblicati su Next, una rivista che si propone dichiaratamente contraria alle logiche del mercato e per tali motivi e per sottolineare una lontananza, gli articoli dei suoi autori sono firmati soltanto da pseudonimi. La rivista vuole essere un faro nella notte, una sorta di avanguardia anacronistica nel genere fantascientifico. Richiama le avanguardie che si erano costituite nel corso del Novecento come risposta dell'arte alla società borghese e al predominio della mentalità mercantile, quando apparve chiaro che il mercato aveva assorbito l'arte, rifiuto dei canoni, dei modelli, dei generi tradizionali, opposizione al senso comune e al banale, intento di contrapposizione alle istituzioni, organizzazione di una controegemonia che vede in un lavoro nel lavoro di un collettivo una sfida all'idea del singolo individuo geniale, morte all'arte tradizionale e canonica, opposizione alla cultura dominante. Tra le avanguardie del Novecento ricordiamo la pittura informale, informale, un rifiuto della forma, un rifiuto di tutto ciò che è dato e dettato, una corrente artistica pittorica nata alla fine degli anni 40, sullo sfondo degli orrori del nazismo, al quale e contro il quale si ribella. Testa di ostaggio 14, 1944, è l'opera di Jean Fautrier, Ostaggi, nella quale si raffigura la testa di un partigiano morente per mano degli orrori nazisti. Il colore è denso, la materia è densa, lavorata a spatola e percorsa da cretti violacei per interrompere violentemente la continuità. Questo era il modo in cui la pittura informale coniugava surrealismo e ribellione ad un ordine dato. Cyborg, creatura scientifica per alcuni, metafora della condizione umana per altri, fine o obiettivo a cui tendere per la corrente di pensiero postumanesimo. Secondo tale corrente, che si basa su alcune teorie filosofiche e soprattutto legate alla biotecnologia, l'uomo dovrà divenire con il tempo sempre più un innesto di umano e tecnologico al fine di superare i propri limiti organici, fisici, in uno spazio che sia sempre più virtuale. Anche l'arte del postumanesimo, l'arte post-human, affronta in maniera artistica le stesse tematiche relative al corpo umano, rispetto al quale dice che il corpo non deve essere più visto come un prodotto di consumo, ma come un oggetto biologico su cui intervenire tramite strumenti tecnologici, con il fine di alterare le caratteristiche genetiche e psicologiche. Il corpo, dunque, viene proposto sulla scena non per essere indagato rispetto ai propri usi sociali, ma come un luogo complesso e ambiguo che può assumere tutte le identità possibili, accogliendo in tal senso il concetto di alterità. Ad ogni modo, la tecnologia in questo caso diventa il mezzo con cui l'uomo va oltre se stesso e i propri limiti organici, aprendo le frontiere alla ricerca di un nuovo tipo di corpo che vada oltre il biologico e agisca in un nuovo spazio virtuale. Anche il biopunk si occupa di questo, si occupa del sentimento sotterraneo di inquietudine e va a riscoprire in questo senso il noir e l'hardboil che aveva inizialmente trasformato i terrori della letteratura in metafore della realtà. In questo caso, nel biopunk, il terrore è legato al lato nichilistico e sotterraneo della biotecnologia, che viene espressa e raffigurata attraverso elementi di letteratura noir e anime giapponesi. Nel postumanesimo non si ripercorre il sentiero che era stato portato avanti dalle avanguardie surrealiste, che vengono invece nuovamente riprese una notte nel 1960 in una cantina parigina da un gruppo di scrittori che crea la rivista Ulipo, apertura di una letteratura potenziale. Di questi scrittori, di questo movimento, faceva parte anche Italo Calvino. Il movimento si basava nel voler essere un anello di congiunzione tra la fisica e la metafisica e si definì patafisica, basandosi sostanzialmente su figure ricorrenti quali il nonsense, l'ironia e il grottesco, e una parodia di tutto quello che si riteneva non potesse essere preso in considerazione o espresso seriamente. Il traffico continuava a scorrere nelle vene della città, ricordandoci che il mondo era ancora vivo. Il fuoco termonucleare aveva inciso a fondo il tessuto urbano, plasmando nuove forme nelle strutture di vetro ed acciaio. Nell'arco della giornata le ombre dei palazzi disegnavano una coreografia cangiante, geometrie psichedeliche che producevano esiti imprevedibili sulle nostre menti. Era la percezione stessa del mondo e del tempo a risentirne. Senza che ce ne rendessimo conto, la realtà veniva costantemente riscritta nel non spazio della nostra psiche. Jim viene a prendermi quando si avvicina la sera. Il cielo sopra di noi è di un blu che si va spegnendo, ma che continua a ferire le viscere sensi. È un cielo ancora incandescente, un monito che resiste alle lusinghe delle tenebre. Salgo in macchina e mi lascio guidare sulle strade che si perdono nella notte. I lampioni formano navate di luce. Le strade vivono al di fuori del tempo, mi ripete Jim. Hanno lo scopo di imbrigliare la dimensione dei nostri incubi e dei nostri desideri. Guardo fuori, nella notte pulsante di luci, la città una barriera corallina su cui si infrange la mareggiata psichica innescata dalle sue parole. Il canto remoto di onde d'asfalto culla la stanchezza dell'uomo sull'orlo dell'abisso. Abbasso il finestrino, quanto basta per far sibilare l'aria nell'abitacolo, e mi sento scorrere di fianco il corpo sensuale della città, il fruscio di seta dell'abito che ha indossato per la notte. Non darle troppa confidenza, mi avverte Jim. Quando guida, davanti ai suoi occhi si dispiega una planimetria olografica della città. La funzione d'onda collassa lungo il nostro sentiero spazio-temporale e torna indefinita subito dopo il nostro passaggio. Una volta Jim ha cercato di descrivermene le proprietà quantistiche e le sue parole mi richiamano alla mente quella vecchia lezione. Come tutte le creature della notte, è intrinsecamente inaffidabile. Socchiudo gli occhi e reclino il capo sul poggiatesta. Jim ha una guida sicura, matematicamente conforme al moto dominante nel livello di flusso del traffico che andiamo attraversando. È ineccepibile nella sua aderenza alla norma delle distribuzioni statistiche. Immagino gli schemi mentali che si succedono nella sua testa, un campionario di informazioni sull'intensità del traffico, i volumi orari, il deflusso dei nodi tenuto in costante aggiornamento attraverso le frequenze di radio cruise control. Jim riesce ad evitare accuratamente gli imbottigliamenti, dribbla le ore di punta. Il suo metodo di base si basa sulle leggi di Kirchhoff ed è infallibile per merito della sua rapidità di adattamento e di calcolo. La sua guida riesce a calmare i miei nervi, ma produce anche un effetto collaterale. Subisco il suo potenziale ipnotico. Lui un tempo era un dottore e dice che l'anarcolessia fa parte della terapia che ha messo a punto per me. Nella mia testa, spettri elettromagnetici evocati dalla voce di Radio Cruise entrano ed escono dal dominio del sogno, rasentando il confine del dormiveglia. Gli chiedo dove stiamo andando. Lui scuote la testa. È trascorso tanto tempo e ora ho cominciato a capire che cosa mi sta facendo. Analisi dei transitori di livello profondo. Bombardare la superficie della coscienza in condizioni di rapida evoluzione fino a trovare un varco verso i livelli inferiori dell'inconscio, per poi modulare gli stimoli al fine di misurarne profondità, forma e caratteristiche. Un eco scandaglio psichico, nema problema, ormai sei pronto. Ti porto a conoscere una persona, ha chiesto di incontrarci, a quanto pare ha un lavoretto per noi. A quanto pare la prima fase della terapia è conclusa. Jim è una persona estremamente affidabile e scrupolosa. Non correrebbe mai il rischio di compromettere un incarico con un lavoro sbrigativo o poco accurato. Con gli occhi chiusi mi lascio accarezzare dal respiro della città sulla pelle e il tocco delle sue carezze si fa via via più evanescente mentre ci addentriamo nello sprawl della periferia. Incontriamo Blicero in una piazzola panoramica, ai bordi della strada di montagna che porta alla diga del Dipartimento Metropolitano di Ripartizione Acqua. Sopra di noi la luna si concede progressivamente al cono d'ombra della sua sorella siderale e si lascia inghiottire dalla notte. In fondo alla valle si intravede la ragnatela di luci della città, dispiegata come un mandala nella sua geometrica precisione da circuito stampato. Jim si fa carico delle presentazioni. Blicero si aggiusta il borsalino. Ha occhi di ghiaccio ed è questa la prima cosa che mi colpisce. Penetrano l'oscurità da sotto la tesa del cappello di feltro che porta schiacciato sulla fronte. Mi dice che Jim è uno dei suoi agenti migliori. Io mi fido del suo giudizio. Dice che quando si è presentata l'opportunità di questo lavoro ha pensato subito alla nostra squadra. «Bene», dico io, sentendo crescere l'euforia sulla lunghezza d'onda dell'adrenalina, e chiedo di che cosa si tratta. Mi dice che i tempi sono tornati maturi per diffondere il verbo, all'aria di un predicatore in estasi al culmine del suo sermone. Faccio un cenno alla borsa posata ai suoi piedi, nel terriccio e nelle pietre che pavimentano la piazzola. Mi immagino, stipato al suo interno, un assortimento di Bibbie e Vangeli. Mica staremo parlando di testimoniare la parola del Signore, ma lui non mi risponde. Poi, in un certo senso, mi dice che si tratta in effetti di spargere consapevolezza, che le strade del mondo ne hanno bisogno, è la realtà a chiederlo, l'eclisse è totale. La città occhieggia in fondo alla vallata, all'improvviso più luminosa nel contrasto con la notte siderale. Blicero si china, afferra la borsa e la solleva, la porge a Jim e dice che lì c'è tutto il necessario di maneggiarla con cura e di fare un buon lavoro senza risparmiare un solo centimetro di spazio né un microsecondo di storia. Jim afferra la borsa con un'espressione grave e assicura che sarà fatto. Lo scambio si compie sotto l'occhio segreto della luna che assiste non vista nel suo nascondiglio celeste. Blicero conclude dicendo che la missione non conosce tregua, è una guerra psichica che ci impone uno sforzo di coscienza e resistenza. Senza attendere una risposta risale sulla sua auto nera come la notte, mette in moto e riparte, allontanandosi dalla città su un tappeto di tenebre e di note meccaniche. In cielo una falce d'argento taglia il velluto della notte, la luna si avvia ad uscire dal suo temporaneo canto di oblio. Domando a Jim, adesso che cosa si fa? Ma subito la domanda mi infastidisce ancora prima che ho finito di pronunciarla. Mi metto nei suoi panni, mi starà odiando. L'immedesimazione con lui è sempre più spinta, mi sento in simbiosi. Lo guardo mentre apre il portabagagli, una luce azzurra lo investe. Nel vano riposa un bizzarro congegno, ha una forma vagamente animale, come se il suo costruttore avesse voluto riprodurre in un motore a scoppio un paio di fauci senza occhi, una gola e forse un intero sistema gastrointestinale. Jim posa la valigia accanto alla cosa, la apre e ne estrae un cilindro di cristallo. Al suo interno, in sospensione, confinato in qualche sorta di campo magnetico, 10 microscopici punti di luce intensissima. Mi avverte subito di non fissarli e poi mi spiega che è una cartuccia, 10 ricariche, 10 assalti allo spazio-tempo e la dimensione psichica di chi lo occupa in quel momento. Deve aver notato il disagio che si è dipinto sulla mia faccia. Perché molto presto si affretta ad aggiungere che non è nulla di definitivo, che il processo è reversibile, che serve solo a dare una scrollata a quelli che per troppo tempo si sono adagiati sulle loro certezze. Mi chiedo se sia questa la nostra missione. Lui annuisce. Singolarità. Ne seminiamo un po' in giro e lasciamo che facciano il loro corso sulla storia. Queste sono le parole che lui pronuncia. Appena pronuncia l'ultima, allunga una mano e dà in pasto la cartuccia al Moloch innestato in simbiosi con la nostra Pontiac GTO convertibile del 69. Le sue fauci la ingurgitano bramose e la luce che si irradia dalle sue viscere da blu passa a verde smeraldo. Mi dice che è ora di mettersi all'opera. Lo seguo a bordo dell'auto. All'accensione. Il motore emette un rombo diverso, più carico del normale. Passiamo davanti ad un treno merci in sosta in una stazione di campagna. La locomotrice Bombardier sembra sfidarci, ma forse vuole soltanto indicarci la via con i suoi fari accesi nella notte. Ci stiamo avvicinando alla città. Intuisco la manovra di accerchiamento che ha in mente il pilota. Posso sentire l'ansia della cosa nel bagagliaio, intrecciarsi al ruggito del motore. Le nostre cronobombe sono pronte a detonare. Thank you. Il perché delle autostrade per il nostro tragitto lo ricostruisco dalle passate conversazioni con Jim. Le strade sfuggono al consueto flusso del tempo, sono zone franche, terra di nessuno. Le uniche distorsioni alla regola vengono dagli incidenti automobilistici che rappresentano l'irruzione del tempo nella loro dimensione. Ma in assenza di scontri, collisioni, urti, guasti e uscite di carreggiata, le strade conservano la loro prerogativa di vivere al di fuori del tempo e l'effetto si amplifica con la velocità. Più si va veloci, meno si risente del richiamo gravitazionale del tempo e in quanto strade a scorrimento veloce, le autostrade saltano questa caratteristica. Disseminiamo le nostre mine spazio-temporali seguendo uno schema che Jim deve essersi prefissato da tempo. Il Moloch sgancia la prima e lui, scrutando il cruscotto, sta pensando a che cosa sarebbe successo se la Seconda Guerra Mondiale fosse stata interrotta da un'invasione aliena. 10 chilometri e 3 uscite più tardi sta ancora pensando a che cosa sarebbe successo se il Giappone avesse scoperto l'America. Sì, proprio così, altro che... Un altro paio di uscite e ancora sta pensando se Bill Barrow avesse ereditato la Barrow Corporation e ne avesse fatto la Apple e la Google della sua epoca, che cosa ne sarebbe successo? E così via, questi sono i suoi pensieri. Dietro ai miei occhi scorrono immagini di questi universi alternativi, storie parallele che risucchieranno gli incauti automobilisti destinati a entrare in collisione con le cronobombe nella nostra scia. Mi sento come un corsaro, ma l'autostrada è sicura per noi, me lo ripeto come un mantra, pensando a quello che stiamo facendo, alle anomalie che stiamo incapsulando nella trama della realtà. Ripenso alla narcolessia e mi perdo ancora una volta sull'interfaccia tra la coscienza e il sonno. Sin, sinner, stati indotti di narcolessia, sin come peccato. Continuo ad entrare e uscire dalla realtà, mentre la missione prosegue. Nella mia testa riverberano le parole di Jim, pronunciate in quel momento oppure un secolo fa. Impossibile a dirsi. Ripete che la Terza Guerra Mondiale non è mai finita, ha solo trovato un campo di battaglia nuovo, adatto ai tempi che corrono. Ci intercettano a metà dell'opera. Auto rapaci della Polizia Nova piombano su di noi con implacabili manovre da pirati della strada. Vogliono la nostra testa e sono disposti a tutto per prenderla. Io pensavo che sarebbe stato un lavoro tranquillo. Beh, probabilmente, se non fosse intervenuta la polizia, lo sarebbe senz'altro stato. Ma la Polizia Nova può spostarsi tra gli universi, saltare da una linea all'altra. E il suo agente lì può essere messo da un posto in un posto che non vorrei mai vedere. A differenza di Bill... È molto più stronzo, è un sadico e un aguzzino e se ci prende lui siamo fottuti. Vengo sballottato sul sedile della Pontiac come un pacco. Poi il Moloch rilascia con l'assenso del pilota la sesta singolarità e due delle cinque vetture che ci stanno alle costole ci sbattono contro senza nemmeno accorgersene. Vengono proiettate in una dimensione alternativa in cui forse dovranno vedersela con una civiltà che non ha nulla di biologicamente riconducibile all'umano. La nostra scorta si assottiglia, non possiamo più sacrificare la missione, la resistenza viene prima di tutto, anche prima di noi. E quindi dobbiamo seminarli e dobbiamo riprendere ad andare lontano. Mi chiede Gima se me la sento, stiamo tenendo testa alle volanti della Polizia Nova da ormai quasi mezz'ora e Gima sembra divertirsi alla guida della Pontiac modificata. Lui continua comunque a seminarli. Thank you. Stiamo tenendo testa alle volanti della polizia nuova da ormai quasi mezz'ora e Jim sembra divertirsi alla guida della Pontiac modificata. Ed è allora che i tirapiedi sembrano incattivirsi, forse per la frustrazione, e decidono di passare alle maniere forti. Aprono il fuoco su di noi. Jim ha un asso nello schivare la prima raffica, ma non può nulla contro il tiro incrociato degli elicotteri. La Pontiac perde carburante e si lascia dietro una scia verde. Lui mi avvisa di tenermi forte, allungando una mano verso la leva del cambio. Stiamo passando alle maniere forti. Estrae un cassetto dal cruscotto, mettendo in mostra un piccolo interruttore cromato, per il momento aperto su off. Sembra eseguire mentalmente un conto alla rovescia e, alla fine, sposta la leva su on. Uno strappo mi inchioda la schiena al sedile e la nuca contro il poggiatesta. L'accelerazione mi lascia quasi senza fiato. Jim controlla l'auto con sicurezza, mentre ci lasciamo alle spalle gli inseguitori. In tutto l'overdrive dura 30 secondi, al termine dei quali torniamo alla velocità di crociera. Lui inchioda e guida il muso uncinato della Pontiac in una serpentina verso il bordo della carreggiata. Mi dice, con voce affaticata, di aver consumato gran parte del carburante. Io mi giro a guardarlo, la sua faccia è imperlata di sudore. Una smorfia si fa strada sotto i suoi lineamenti, da compito signore di mezza età. Però è stato meglio che seminarlo lungo la strada. Stiamo infatti ancora perdendo liquido, gli faccio notare, e non è soltanto il problema della Pontiac. Guardando verso il suo addome, capisco che lo hanno colpito, che lo hanno beccato e non so se ce la fa a guidare. Credo che una buona idea sia quella di tornare immediatamente al quartier generale. Ma lui mi dice che non ci sia più tempo e vuole passare sul sedile del passeggero per farmi guidare. Io sono confuso, non so davvero che cosa fare, ma lui mi ricorda che abbiamo una missione e allunga una mano verso il portadocumenti davanti a me e lo apre. Vengo investito dalla luce smeraldina che si irradia da un globo incandescente. Mi dice che quella è un'antenna psichica, è il recettore della cosa lì dietro, della bocca da cui si nutre dei nostri sogni e dei nostri incubi, che usa per innescare le cariche psicospazio-temporali. Siamo ancora Jim ed io, ancora una volta, uno di fianco all'altro. Ma stavolta al volante siedo io, mentre lui è innestato sul sedile del passeggero e nutre la sfera onirica, innescando le singolarità che detoneranno dietro di noi. Mi chiede se sono pronto. E io lo chiedo a lui, e lui annuisce con gli occhi chiusi, il capo reclinato sul sedile, lasciandosi accarezzare dal respiro di sita della città, e così andiamo. Abbiamo ancora 3 cronobombe, mine che detonando scuoteranno il continuum psichico delle persone che vi si imbatteranno. Però siamo in riserva, il carburante non ci basterà mai. Intanto sento le sirene della polizia nuova avvicinarsi, icone neuroniche sulle autostrade spinali che percorrono lo scheletro metropolitano dell'agglomerato. Jim sogna. Giganti annegati, spiagge terminali, piste d'atterraggio ai confini del deserto, mondi sommersi. Sgancio una singolarità, poi approfitto di un varco aperto per invadere le corsie del senso di marcia opposta. L'autostrada a quest'ora è deserta. Sgancio la penultima singolarità. Nuvole scolpite, fiori musicali, città di concentramento, megastrutture spaziali della geometria frattale, studi televisivi da cui viene trasmesso l'ultimo show di un'umanità tragicamente ripiegata su se stessa. Faccio inversione e torno sulla traiettoria originaria e mi dico che è l'ultima, però Jim comunque non mi sta ascoltando. Sgancio la cronobomba e inverto la rotta con uno stridio di gomme sull'asfalto, punto il muso dritto verso la singolarità, vedo i lampeggianti delle vetture della polizia nuova, i fari abbaglianti degli elicotteri corrermi incontro, premo l'acceleratore, salgo di giri e scalo le marce, la Pontiac azzanna l'asfalto e ci fondiamo verso il mondo zero, sulle esatte coordinate geografiche e temporali in cui Jim ha concepito il suo paesaggio interno codificato del terzo millennio. Abbandonato alle forze dell'entropia. Il sibilo dei reattori di un aereo di linea si trasforma in un tuono che amplifica il senso della transizione. Su di noi transita la mole di acciaio di un Boeing 747. Fisso le luci di segnalazione incolonnate lungo la pista. Oltre la spianata, intravedo scorci di un panorama urbano familiare. Riconosco vagamente profili architettonici che si innestano sull'orizzonte. Mi volto verso il passeggero e dico: bentornato a casa, Jim. I love you all to blind.